Linee d'ombra di Matteo Caccia. Chi si trova lì come se stai con l'arma spianata, no? Chi si uccide, ma poi trovi accanto a te quello che ti ci fa pensare, no? Ma passa l'arma e poi dopo dici, ma chi se ne frega, non lasci perdere tutto. Ci siamo, il momento è arrivato. Adesso gli posso dire finalmente tutto quello che penso, tutto quello che provo, dopo 21 anni e 8 mesi. Storie di addii mal riusciti e di scuse mai porte in una puntata che si intitola Al confine tra il dire e il non dire. Lottate quindi con fermezza, giovani che mi ascoltate, perché lottate in questo modo per il vostro domani e per il vostro avvenire. Ma siate sempre tolleranti. Sì, lottate con la passione con cui ho lottato io e lotto ancora oggi, nonostante gli anni, per le vostre idee e per questi principi. Ma io vorrei che voi teneste presente un ammonimento di un pensatore francese, ammonimento che io ho sempre tenuto presente alla mia mente e al mio animo. Dico al mio avversario, io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre, liberamente. Lui è ovviamente Sandro Pertini, il presidente partigiano, l'uomo la cui voce è pressoché riconoscibile in qualunque frangente. Se l'avete conosciuto, se avete avuto modo di sentirlo parlare qualche volta nei suoi discorsi, è impossibile non riconoscerlo. Qui era già molto anziano, era seduto al Quirinale e citava quella frase famosissima di Voltaire, che l'ha appunto nominata. Io combatto la tua idea che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea possa esprimerla liberamente. Questa probabilmente in quegli anni, negli anni 80, era una frase che in pochi conoscevano. Oggi devo dire è diventato un meme, spesso in giro sui social, e come sempre succede, queste frasi, che sono delle frasi altissime e bellissime, quando vengono utilizzate un po' perdono della loro stiratura, no? Si sciupano un po'. Rimane comunque una frase bellissima. Tra l'altro ho fatto una ricerca e molti sostengono che non sia una frase di Voltaire, cioè molti sostengono che sia una frase che Voltaire ha citato prendendola da qualcun altro e poi è andata attribuita direttamente a lui. Abbiamo aperto così questa puntata, che ricordiamo è la puntata home version, versione da casa di Linee d'ombra, in ottemperanza alla richiesta del governo, delle regioni e dei comuni di rimanere a casa il più possibile. Noi abbiamo questa enorme fortuna di poter di fatto trasmettere da casa, di poter mettere insieme i pezzi dei programmi anche da casa. Radio 24 continua a lavorare in maniera davvero impeccabile e le persone che continuano a fare le news, informazione, spesso vengono in studio e siamo davvero grati a loro per questo, mentre chi può, come ad esempio nel nostro caso, raccontiamo storie che sono atemporali, no? Sono avulse dalla quotidianità, possiamo farlo remotamente in modo da evitare di uscire, di fare assembramenti in giro per strada. E quindi appunto magari sentire, c'era un cane poco fa che abbaiava, ho aspettato un quarto d'ora perché finisse di abbaiare fuori dalla finestra, adesso non lo so se ha smesso, però tant'è, continuiamo a raccontare le nostre storie. Questa è una puntata molto interessante perché il confine, quella linea d'ombra tra il dire e il non dire è molto sottile e delle volte io credo che non dovrebbe esserci, soprattutto nelle storie che stiamo per raccontarvi, perché la prima storia, quella di Luciano, è una storia che, come dire, schiaccia tutto il senso della narrazione proprio su quel confine. Devo dire questa cosa. Ci mette 21 anni e 8 mesi Luciano per dire questa cosa, 21 anni e 8 mesi, e alla fine non la dirà, ed è una cosa che lui deve dire al suo capo, si parla di lavoro in questo caso, e quel confine che lui di fatto si crea non lo valicherà mai, e più tardi sentiremo se è pentito oppure no. Ogni tanto però la sensazione è che siamo noi stessi che ci mettiamo un confine come questo. lo dico. Ci sono delle cose che probabilmente vanno dette semplicemente perché è giusto farlo, perché è giusto per noi e per la persona che abbiamo davanti. La seconda storia invece riguarda un discorso famosissimo, un discorso che per forza conoscete, è un discorso che Bill Clinton fece davanti alla nazione americana e davanti a tutto il mondo di fatto, quando fu accusato di avere, non di avere tradito la moglie con una giovane stagista di cui tutti ricordiamo il nome, Monica Lewinsky, ma quando di fatto venne accusato di avere dichiarato il falso. Ebbene, c'è un discorso che è stato scritto da uno di quelle persone che vengono definite ghostwriter, cioè un autore politico che aveva scritto un discorso di scuse, e lì il confine tra fare le scuse e non farne scuse è veramente molto molto sottile e di fatto non è stato probabilmente valicato. Noi vi chiediamo di continuare a mandarci le vostre storie qui a Linea d'Ombra, sapete, noi viviamo di quello. lineadombra@radio24.it, e vi diamo due possibilità in questo periodo bizzarro della nostra vita. Uno è quella di continuare a mandarci storie che riguardano una fase di passaggio, una linea d'ombra che nella vostra vita avete attraversato. Potevate avere 15 anni la prima volta che siete diventati grandi, la prima volta che avete dato un bacio a una ragazza o a un ragazzo, la prima volta che avete fatto un passo importante nella vostra vita. Allora magari volete tornare là con la mente, volete tornare là con il ricordo e con il racconto, e ce la mandate. Un paio di pagine e noi siamo felici. Altrimenti ci mandate, se avete voglia di sfogarvi e condividere le vostre giornate casalinghe o meno, magari non casalinghe se dovete continuare a lavorare in quarantena, se avete voglia di condividerlo, sempre a lineadombra@radio24.it, una paginetta che sia un diario della vostra quarantena. Ma ora cominciamo con la prima storia. Benvenuti a Linea d'Ombra. Ci siamo, il momento è arrivato. Ora gli posso dire finalmente tutto quello che penso, tutto quello che provo, dopo 21 anni e 8 mesi. Ora posso dire a me stesso, al mio segnale scateno l'inferno, scateno l'ira via via accumulata e mai scaricata. Salgo le scale che portano al tuo ufficio, apro la porta e sono qui, davanti a te. Ciao, ti saluto, buone cose. La mia voce esita per un attimo, come esita chi con una pistola in mano finalmente può farsi giustizia da sé. In un secondo mi passa davanti tutto. 21 anni di mancata considerazione, denigrazioni, diffamazioni, stupide ripicche. Il giorno in cui venni assunto avevo una gran voglia di dimostrare le mie capacità, ma non potevo sapere che da subito mi avresti visto come un nemico più che come un collega. Poi diventasti il mio superiore. Eri predestinato dal grande capo, ma lo sapevo già, e professionalmente ho sempre rispettato questa decisione. Ma in pratica è sempre stata una persona di pochissime parole, anche dal primo giorno che ci siamo visti. Appunto lui non dava commenti, non faceva capire diciamo che cosa pensava. A me mi andava, io che venivo da, ero una persona assunta da poco, quindi cercavo in tutti i modi di far presente tutte le mie esperienze che avevo fatto finora, e tenevo a fare chiaramente una bella figura, no? Ero giovane e motivato, e da subito iniziai a proporre migliorie da applicare al lavoro, con la convinzione che si faceva tutto sempre per la squadra. Però da allora iniziò tutta una serie di comportamenti che meschinamente offuscarono il mio lavoro. Email accusatorie senza mai specificare il mio nome, scartare tutte le mie iniziative per paura che mettessero in luce le tue mancanze. Io mettevo tutto da parte, stampavo le email che mi inviavi, prendevo appunti su tutto quello che mi contestavi, costruivo schemi con argomenti di difesa nel caso si dovesse andare davanti ai dirigenti per dare spiegazioni. Prima bastava solo un quadernino, poi si è reso necessario addirittura un raccoglitore da ufficio. Trovarti a prendere il caffè ridendo con gli altri colleghi, per poi cambiare espressione quando ti accorgevi della mia presenza. Tutte queste cose. Andare via senza salutare, sapere dagli altri le decisioni che interessavano il mio reparto. Questo era il livello di rapporto che riservavi a me. Tutte cose che feriscono e fanno aumentare il rancore. Don't worry. Poi un giorno decido che devo mettere fine a tutto questo. Non è semplice cambiare lavoro alla mia età, eppure ci ho provato. Ho fatto dei concorsi e per uno di questi sono risultato idoneo in graduatoria. Con questa speranza di cambiare lavoro, quante volte ho fantasticato sul momento in cui sarei venuto da te e ti avrei detto: ti saluto, spero in futuro di non incontrare mai più un pezzo di merda come te. A non arrivederci. Poi quel giorno arriva, salgo le scale che portano al tuo ufficio, apro la porta e sono qui, davanti a te. Allora, quel momento in pratica io me l'avevo già vissuto tante volte, diciamo, nei miei pensieri, nei miei sogni, perché già anni prima potevo avere la possibilità di andare via, però alla fine non è, se si sta in graduatoria, poi le graduatorie scadono, quindi non se ne è fatto niente, però ero già pronto, quindi questa scena l'avevo già provata in me, diciamo, e quindi io vado su, gli dico questo è quest'altro, che mi hai trattato sempre in questo modo, così cos'hai. Ciao, ti saluto, buone cose. La mia voce esita per un attimo come esita chi con una pistola in mano finalmente può farsi giustizia da sé. Ma uccidere per vendetta non guarisce le ferite, ti fa solo sentire svuotato, impotente. E proprio come accade nei film, dove chi tiene l'arma in pugno ha la mano tremante e gli occhi lucidi in cui traspare tutto il dolore che ha dentro, alla fine alza l'arma al cielo e mentre spara lancia un grido con cui libera l'ira pregressa. E allora la mia voce esita solo per quell'attimo e poi aggiungo un falsissimo «Stammi bene, ci sentiamo». Ci stringiamo la mano, dopo 21 anni e 8 mesi, ci stringiamo solo la mano. Arriva la sera di questa indimenticabile giornata, sono nel mio garage e sto bruciando tutti gli appunti presi per difendermi ed attaccarti. Non ho sparato tutto quello che avrei voluto dire, forse è stato meglio così, ma questo non lo saprò mai. Insomma, il confine tra il dire e il non dire, tra il detto e il non detto nella storia di Luciano è molto molto chiaro ed è molto molto netto. È un confine che di fatto è lungo o dura 21 anni e 8 mesi, che in quanto a confine è sicuramente abbastanza evidente. Pronto, ciao Luciano, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno. Come stai? Abbastanza bene, tu? Benone. Senti, so che tu sei della provincia di Roma, dico bene, o di Latina? Sì. No, di Roma. Di Roma, sei di Guidonia, giusto? Guidonia, esatto. Senti, com'è la situazione emergenza lì da voi in questo momento? È abbastanza seria, nel senso che le persone in giro sono veramente poche. Tutti i giorni, la mattina, sempre di domenica, la gente è poca e quindi le file al supermercato. Diciamo che insomma tutti adesso ci si pensa seriamente insomma a questo problema. Ormai tra l'altro è incredibile per me vedere come questa cosa accada qui da Milano o a casa tua insomma in provincia di Roma, ma accade lo stesso in Spagna, accade lo stesso negli Stati Uniti. È la prima volta che mi capita di vedere che siamo tutti, ma tutti, letteralmente tutti, a vivere la stessa identica condizione. Credo sia davvero una cosa, cioè che sia una cosa epocale, lo sappiamo e lo conosciamo, lo vediamo. Sì, sì. Secondo me al pari dello sbarco sulla Luna, nel senso che noi ci siamo capitati e che potremmo raccontarlo, dico, certo, veramente senza dubbio, tempo. Ecco. Luciano, senti, invece la storia che ci hai mandato risale a poco tempo fa, a 6 mesi fa, giusto? Questo saluto, questo saluto, diciamo così. Sì. Sì, esattamente, 6 mesi fa, sì. Quindi è molto fresca ancora? Sì, diciamo di sì. Per fortuna adesso con 6 mesi, con questo nuovo cambio di lavoro, chiaramente le distrazioni sono state molteplici e quindi la cosa, diciamo, oramai è completamente scemata, diciamo. Certo. Anche se certe volte mi fermo a ripensarci, perché insomma 20 anni è un periodo veramente lungo. Però le cose sono andate così. Senti, ma tu non hai mai pensato? Non hai mai pensato che parlargli in maniera, come dire, onesta, non dico col cuore in mano, ma parlargli serenamente di quello che provavi, di come andava la cosa, sarebbe potuto servire sia a te sia a lui? No, hai preferito evitarlo. Ma diciamo, anni addietro c'è stato un momento in cui io ho rotto un po', diciamo, gli indugi e ho fatto un discorso un po' più personale, però okay. mi sembrava che l'aveva recepito, ma poi a quanto pare non mi sono reso conto di no. L'atteggiamento è sempre rimasto tale. Come si dice, io mi sono trovato al posto giusto, purtroppo le persone è andata così. Ti ho un po' perso, ma ho capito, insomma, sei trovato al momento giusto con le persone sbagliate, mi sembra di capire. Ma si può considerarlo quasi mobbing questo, Luciano? Sì, per un ci ho pensato, tant'è vero che per me poi era diventata una cosa abbastanza maniacale mettermi da parte tutti i messaggi, tutte le email. Io avevo ristampato tutto quanto, perché poi c'era tutti questi messaggi che a me mi arrivavano dicendo che ho saputo che qualcuno, oppure per colpa di qualcuno, sempre. Poi insomma io lavoravo in un gruppo abbastanza ristretto, perché eravamo 6 persone, quindi quando arrivano questi messaggi alla fine insomma si faceva presto a capire, certo, con chi ce l'aveva, senza però dirlo mai, senza però poi come no, mettersi la faccia, diciamo, a quel punto, no? E quindi sì, poi tu restavi ogni volta, non sapevi mai, restavi sempre, sai, con i denti stretti, perché poi alla fine dici, ma non è che ce l'aveva con te, no? Perché non c'è scritto, no? Cioè, quindi certo. È andata avanti sempre così questa storia, e quindi questa ira che piano piano, no, montava. Ma questa era una cosa di cui hai parlato con qualcuno? No, diciamo, no. Non... ma quando alla fine, ma anche perché poi ti dicevo, alla fine al lavoro c'era creata questo meccanismo strano dove tutti quanti in un certo senso ironicamente facevano il tifo per me, per un futuro, e dice, sai, quando sarà, lo manderanno via, metteranno te al posto suo là. E quindi poi alla fine c'era anche questa situazione paradossale, no, dove, certo, io non so lui come l'ha mai digerita questa cosa, però hai più notizie di lui o dai tuoi colleghi, qualcosa, ex colleghi? Sì, perché comunque sia, ogni tanto mi sento con chi effettivamente poi ha meritato il mio rapporto d'amicizia, quindi ogni tanto ci sentiamo, mi raccontano un po' di quello, e alla fine mi rendo conto che non è cambiato assolutamente niente. È una persona che è partita così, finirà così, certo, la sua attività, per carità, grandissima persona dal punto di vista professionale, però lui si era ritrovato a gestire i rapporti umani di un gruppo, che tu sai bene che tipo di qualità poi servono per, chiaro, questo, no? Chiaro, la, chiaro, comunicazione, chiaro, lo stimolo, il fatto di mettere in gara, di mettersi in gioco, tutto questo era proprio, non c'era assolutamente, era tutto il contrario. E quindi per me, che io qualsiasi cosa che toccavo, fatalità, la sistemavo, la mettevo per il verso giusto, io ero come un elefante in un negozio di cristalli. Luciano, l'ultima cosa e poi ti saluto. Se tornassi indietro, cambieresti qualcosa? Sì, sicuramente sì, a questo punto sì, perché metterei le cose in chiaro fin dall'inizio, diciamo, a quel punto da subito, nel senso che la situazione è questa, io faccio questo, ho questo ruolo, non capisco perché non posso far parte di questa squadra, anche perché poi il mio contributo andava sempre alla fine alla squadra, certo, no? Quindi certo, non è che era certo. Non c'era, avrei messo in chiaro subito le cose. Chiarissimo. Poi ecco, come ti dicevo, alla fine poi ci sono messi anche i dirigenti dall'alto, che quando è stato l'avvio di questa avventura che noi abbiamo iniziato appunto 20 anni fa, tra l'altro, a me hanno dato anche altri incarichi che mi distoglievano dalla mia posizione, che per certi momenti sono stati messi erano quasi in concorrenza, ma allora c'era un problema anche di urgenza, e quindi a me avevano scelto me per le mie qualità, però per un certo tempo ci siamo stati anche concorrenti, non in maniera dichiarata, però sono messi anche i dirigenti dall'altro, cioè, è stato complesso. Luciano, io ti ringrazio davvero tanto per averci mandato la storia e per la chiacchierata. Tieni duro, passerà anche questo periodo. In bocca al lupo per tutto. Baby, ciao Luciano, ciao, grazie. Matteo, ciao. Ciao. Quante volte ascoltando le nostre storie ti è capitato di pensare: anche io ho vissuto una cosa simile, anche io ho una storia da raccontare? Ecco, se ti è successo, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso. Un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un momento di passaggio, un confine tra chiaro e scuro, tra luci e ombre. Quando ti sei innamorato. Quando hai scelto di cambiare le cose. Quando da ragazzo un avvenimento anche piccolo ti ha segnato per sempre. Piccoli confini, sottili linee d'ombra che hai varcato. Scrivilo e spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. Oggi qui a Linee d'ombra vi raccontiamo storie che parlano di quel confine tra il detto e il non detto, oppure, se vogliamo, tra quello che sarebbe stato giusto dire e invece non è stato detto. La prossima storia ne è un esempio lampante ed è una storia che in qualche modo conosciamo, o meglio, la parte esposta la conosciamo. Questa è quello che sta dietro e che invece no, non conosciamo. È la storia di Bob Schramm e del discorso più famoso di Bill Clinton. State con noi. Il discorso doveva essere letto la notte del 17 agosto 1998. Si trova ancora oggi nella casa di Bob Schramm, quel discorso, una pagina appesa a una porta, perché l'ha scritta lui. Schramm è stato a lungo uno stratega politico democratico americano, autore di diversi discorsi politici. Questa storia è la storia di quel discorso, un discorso di scuse che aveva scritto per un pubblico estremamente vasto, possiamo dire tutti gli Stati Uniti. Forse possiamo dire tutto il mondo. Quell'agosto del 1998, Schramm era in vacanza con alcuni amici quando il telefono squillò. A cercarlo era Mark Penn, che all'epoca conduceva i sondaggi ed era uno dei consiglieri del presidente degli Stati Uniti, che all'epoca era Bill Clinton. In quel momento Bill Clinton era in un mare di guai. Da mesi la stampa parlava di una possibile relazione di Clinton con una stagista, Monica Lewinsky, ma Clinton negò davanti a tutti gli Stati Uniti sotto giuramento. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Nonostante lui avesse negato tutto, c'era un vestito indossato quella sera da Monica Lewinsky, che aveva sopra delle tracce di DNA di Bill Clinton. E poi c'erano le telefonate, registrate tra Monica Lewinsky e un collega, in cui si parlava della relazione. Nel momento in cui Bob Schramm ha ricevuto la telefonata, il presidente Clinton stava per testimoniare davanti al grand jury. E cosa avrebbe fatto? Avrebbe dovuto confessare la vicenda e poi dire qualcosa alla nazione. Ma che cosa? La telefonata aveva a che fare proprio con questo. Mark Penn chiedeva a Schramm di scrivere un discorso per il presidente da tenere in TV subito dopo la testimonianza al grand jury. Quella sarebbe stata l'occasione per il presidente di chiarire l'intera faccenda, magari chiuderla una volta per tutte e impedire ai repubblicani di avere un procedimento di impeachment pronto da far partire. Il paese intero lo avrebbe guardato in televisione. Bob Schramm ovviamente accettò la proposta. Riagganciò il telefono e disse a sua moglie e alla coppia con cui erano in vacanza che doveva mettersi a lavorare. «Mi sono seduto al tavolo della sala da pranzo», racconta, «e ho scritto a mano su un blocchetto giallo, che è il modo in cui io ho sempre scritto le cose». Scrisse un discorso di scuse, molto chiaro, molto diretto, scuse. Il presidente chiedeva scusa per aver mentito e per quello che aveva fatto. Il discorso che scrisse era questo qui. «Compatrioti americani, nessuno che non sia nella mia posizione può comprendere appieno il rimorso che provo oggi. Fin da quando ero molto giovane, ho avuto una profonda deferenza nei confronti della carica che ricopro. Sono stato onorato che voi, il popolo, l'abbiate affidata a me e sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Ma in questo caso non sono stato all'altezza di quello che ci si dovrebbe aspettare da un presidente. Ho mancato di rispetto alla mia fede religiosa e ai miei valori. Ho deluso troppe persone. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni per avere ferito mia moglie e mia figlia, per avere ferito Monica Lewinsky e la sua famiglia, per avere ferito gli amici e il personale e per avere ferito il paese che amo. Niente di tutto questo sarebbe dovuto accadere. Infine, continuava, voglio anche scusarmi con tutti voi, miei concittadini. Spero che possiate trovare nel vostro cuore la forza di accettare le mie scuse. Vi prometto che farò ogni sforzo per guadagnarmi di nuovo la vostra fiducia, per essere degno di questo incarico e per portare a termine il lavoro su cui abbiamo fatto così grandi progressi negli ultimi 6 anni. Dio vi benedica e buonanotte. Schramm lo concluse in un paio d'ore, poi inviò il discorso alla Casa Bianca. E il giorno dopo arrivò. Clinton diede la sua testimonianza al gran giurì, che venne trasmessa in TV, e quella sera il presidente andò in televisione a tenere il suo discorso. Schramm si sedette sulla poltrona insieme al resto del paese per guardarlo in TV, ma quello che sentì non fu quello che aveva scritto. Impatient for tomorrow, where everyone is hollow, all inside the same hole. I have no friend to borrow, but when I smell your soul, lady, I breathe deflated air. Baby, you'll never say goodbye on me. You might as well be cheating on a stranger. Hold up around the corner. Love is not a favor. Time is not a taster. But now I'll never know, lady, my happiness transposed. Baby, you'll never say goodbye on me. You might as well start cutting through the legend. This is not a game show. People tell their grandsons God is the exception. But when I smell your soul, lady, I breathe deflated air. Baby, you'll never say goodbye on me. You might as well be cheating on a stranger. Ce ne stavamo tutti seduti in salotto a guardarlo in TV, racconta Bob Schramm. Io avevo già lavorato con Clinton e sapevo che lui non legge mai esattamente quello che gli mandi, quindi non mi aspettavo che sarebbe stato necessariamente letto parola per parola quel discorso, ma pensai che ci sarebbe andato abbastanza vicino. E invece quello che disse fu esattamente l'opposto. Good evening. This afternoon in this room, from this chair, I testified before the Office of Independent Counsel. Non ricordo solo di aver sentito le prime parole, racconta Bob Schramm, ma ricordo anche lo sguardo sul suo volto. Era chiaramente molto arrabbiato, molto arrabbiato. Io me ne sono accorto subito, ma non credo che il paese l'abbia visto arrabbiato molto spesso. Ho avuto una relazione con la signorina Levinsky che non era appropriata e ho sbagliato, dice Clinton. Sì, nel discorso ci sono momenti di scuse e di riflessione onesta, come quando ammette apertamente le ragioni per cui era stato così evasivo fino a quel momento, però il messaggio complessivo non era un messaggio che diceva «mi dispiace». «Ho fatto un casino», sembra dire. «Il vero problema è il fatto che io mi trovi qui a dover parlare in TV in questo momento. Non sono affari di nessuno», dice, «se non nostri. Anche i presidenti», conclude, «hanno una vita privata». Schramm sostiene che abbia sbagliato a non leggere il suo discorso, perché gli americani avrebbero apprezzato. Ma forse il motivo riguarda l'ammissione della verità. Le scuse riguardano sempre la verità. Tirarla fuori in modo da poter continuare a vivere tutti insieme nello stesso modo. Settimane dopo quel discorso, Clinton, davanti a un piccolo pubblico, ad un incontro con dei capi religiosi, fece marcia indietro rispetto a quel discorso. Lì assunse un tono diverso e disse: «Sono d'accordo con coloro che hanno detto che nella mia prima dichiarazione, dopo la mia testimonianza al gran giurì, non ero abbastanza pentito», includendo le scuse a Monica Levinsky e alla sua famiglia, proprio come aveva scritto Schramm. Bellissima storia di perdono, o meglio, questa bellissima storia di scuse che vi abbiamo raccontato, noi l'abbiamo trovato in This American Life, che, come spesso vi dico, è uno dei programmi di narrazione e di storie che a noi piace di più e dal quale prendiamo chiaramente un sacco di spunto e di riferimento. È davvero Bob Schramm, c'è una foto, se andate a cercarlo, è scritto Schramm con l'H, ha in casa appeso quel discorso scritto, sapete, su quei block notes gialli che si usano spesso nei film americani, appeso in casa, e quel discorso che Clinton non ha mai fatto, perché se insomma avete un'età sufficiente a ricordarlo, ovviamente ne ha fatto un altro. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui con i vostri diari dalla quarantena. Enea, raccontato da Virgilio, era un profugo che fondò Roma. E se è vero che la tradizione è spesso un'innovazione riuscita, un italiano a volte è uno straniero che ce l'ha fatta. Oggi i nuovi italiani sono quelli che vincono Sanremo o quelli che scendono in campo con la maglia azzurra. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto ogni sabato alle 21 con I figli di Enea, storie di nuovi italiani. Naturalmente qui su Radio 24. Linee d'ombra. Via Linea d'Ombra raccontiamo storie, continuiamo a farlo e continuiamo a farlo grazie a voi. Siamo letteralmente inondati dai diari della quarantena. Evidentemente raccontare come vanno queste strambe giornate a casa in attesa che passi la tempesta vi piace, vi dà gioia o vi dà sollievo, insomma non lo so. Io non sono uno psicologo, non sono un antropologo, un sociologo, semplicemente cerco di raccontare, di restituire le vostre storie per quello che sono. Però evidentemente immagino ci sia qualcosa di terapeutico nel raccontare anche di un momento difficile come questo. In realtà la prossima storia, la storia di Roberto, non sembra un momento difficile, anzi sembra quasi essere felice di questa situazione. Roberto adesso ce la spiegherà, e con la felicità racconta anche di avere un po' di senso di colpa. Non è il primo però che sento, tra amici, colleghi o persone diciamo con cui quali sono entrato in contatto in maniera virtuale ovviamente in questi giorni, ce ne sono alcuni che dicono: a me questa situazione non dispiace. Evidentemente sono persone che possono permettersi di non dispiacersene, perché con il lavoro non hanno problemi, magari riescono a continuare a farlo da casa, oppure chi lo sa, insomma evidentemente non hanno problemi economici e possono permettersi questa chiusura totale rispetto al mondo. Roberto è un liutaio e si dice felice, e qui ci spiega il perché. Mi chiamo Roberto Cavagnoli e sono un liutaio di 44 anni. Io sono felice. Lo so che non dovrei dirlo, e so che questa situazione non è causata da fattori piacevoli, eppure, devo dirlo, io sono felice. Spero possiate comprendere che uno stato d'animo non si può cambiare come spegnere o accendere un interruttore. Non so se questa felicità dipenda dal cercare di essere positivi o se è vero che bisogna sempre guardare il lato positivo delle cose, però questa situazione di reclusione sembra avere riportato l'essere umano ad una dimensione più normale, sempre che si possa dare una definizione omogenea della parola normalità. Sono a casa con i miei due figli di 14 e 10 anni che ancora mi vogliono bene e desiderano passare del tempo con me. Ho la fortuna di poter lavorare a casa, essendo un liutaio ed avendo un laboratorio di emergenza nel seminterrato di casa. Costruisco i miei strumenti ad arco, viole, violini con dedizione assoluta e dedico più tempo ai miei ragazzi, che solitamente sono rinchiusi 5-6 ore al giorno a scuola. Devo ammettere che anni or sono, quando Bianca, la nostra primogenita, doveva cominciare le scuole elementari, si era velatamente valutato l'homeschooling, cioè la scuola da casa, come un'ipotesi che però è stata presto scartata, e in questi giorni ne stiamo sperimentando una piccola parte. Consapevoli del grande lavoro che gli insegnanti fanno, io e la mia compagna ci rendiamo conto che non è semplice, ed è per questo che alla fine abbiamo scelto il metodo educativo tradizionale. Noi in questi giorni ci alziamo, o meglio, ci svegliamo con calma alle 7:30 per fare una colazione rilassante e risvegliante alle 8. Approfittiamo di queste settimane per sopperire a quelle che io ritengo essere alcune lacune della scuola moderna. Quindi, dopo colazione, un po' di inglese, ripetendo le stesse frasi come fosse un mantra mattutino, aggiungendo sempre qualcosa di nuovo, una nuova frase o un vocabolo. Poi si svolgono i compiti arrivati dalle maestre, possibilmente in autonomia, sempre presenti però se serve aiuto. Ci approcciamo a passi lenti al computer, che a scuola sembra abbiano visto sì e no una decina di volte in 4 anni, e cerchiamo di fare un po' di dattilografia tutti i giorni, che credo possa servire molto a loro in futuro. Nella lista delle cose da fare, che ogni mattina la mamma ci fa trovare sul frigorifero, specifica per ogni membro della famiglia che ci sono anche piccoli lavori domestici, che servono a far capire a tutti l'enorme lavoro che le mamme fanno per far funzionare al meglio l'ingranaggio della vita quotidiana. Vedo i miei figli più sorridenti e più rilassati, come credo dovrebbe essere alla loro età, e non mancano due tiri con il pallone in giardino e rincorrerci intorno al tavolo fino a quando la testa non ci gira. Passando più tempo a casa riuscirei anche a curare meglio l'orto in questo inizio di primavera, ma proprio quando mi stavo muovendo per organizzarmi hanno chiuso tutti i negozi non strettamente necessari. Fortunatamente ho trovato lo spacciatore che mi rifornirà di sementi, che non è altro che il fruttivendolo ambulante, che gentilmente si presta anche a questo servizio extra. Non so cosa succederà al mio lavoro, se questa situazione si protrarrà a lungo, ma spero anche che, finita questa reclusione forzata, ci si possa interrogare profondamente su alcuni aspetti della nostra vita. Qui però ammetto, la mia positività vacilla assai. Un abbraccio a tutti, Roberto. I don't want you, but I hate to lose you. You've got me in between. Devil underneath blue paint. I forgive you, 'cause I can't forget you. You've got come knocking at my door. Fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, I guess I love you. You've got me in between the devil and the deep blue come knocking at my door. Fate seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you, I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. You got me in between the devil and the deep. E dopo la storia di Roberto, che sembra un titolo di una fiaba, il liutaio felice, il liutaio è la persona che costruisce strumenti ad arco, come racconta lui, quindi viole, violini, non so se anche violoncelli, insomma i grandi strumenti, grandi e piccoli strumenti ad arco. Lo dico semplicemente perché non è così scontato che tutti sappiano cos'è un liutaio, soprattutto se una persona non lavora con la musica, non è un musicista, e sembra veramente una, già di per sé sembra un mestiere da fiaba, in più con questo titolo lo sembra ancora di più, il liutaio felice. In bocca al lupo Roberto e a tutta la sua famiglia. Continuate a mandarci le vostre storie di quarantena, se vi va. linee@radio24.it. Come è cambiata la vostra giornata, che cosa fate, eccetera eccetera eccetera. Noi intanto continuiamo a raccontare la storia che Mauro Pescio ha raccolto ormai più di un mese e mezzo fa. Ormai si deve specificare che non c'è stato un contatto fisico, perché Mauro è andato a incontrare Anna Maria quando ancora l'emergenza non era in atto, non era in corso, e Anna Maria ci ha raccontato, e questa è l'ultima storia seriale legata ai vizi capitali, quello della gola, come attraverso il non mangiare più, attraverso il cibo, o meglio il non ingurgitare più cibo, lei aveva preso una decisione terribilmente definitiva. Mi hanno ricoverata e c'è una struttura che c'è qui a Padova, a Teolo in realtà, in provincia, si chiama Parco dei Tigli, che fa parte sempre delle battute di tutti. E pochi sanno di questo ricovero, per cui tanto quando mi vedono sempre di corsa così, fa Madonna Santa, ne fai una più di Bertoldo, finirai il Parco dei Tigli. E allora gli dico, ci sono già stata e sono anche certificata, perché... E allora finisce proprio così, no? Come dire, voi siete tutti matti, ma io ho il timbro che lo sono sul serio, per cui solo io posso dire che lo sono. Stavolta avrei usato tutte le precauzioni e avrei fatto le cose davvero per bene. Nessuno avrebbe dovuto soffrire, o almeno il meno possibile. Non volevo macchiare di vergogna mio marito e i miei figli. Nel mio piano mi preoccupavo di quali conseguenze avrebbe avuto il mio gesto su di loro. Non pensavo al fatto che mio figlio sarebbe cresciuto senza una madre, ma a che cosa le persone avrebbero pensato di loro, alla reputazione che avrebbero avuto con una madre o una moglie suicida. Comunque dovevi eliminarti, però facendo le cose fatte bene, nel senso, in modo che nessuno ne potesse soffrire. Se ti uccidi e rimane in un certo qual modo, al netto che ci riesci, rimane in un certo qual modo la vergogna nella famiglia. Se invece muori perché sei magra, dici, ma povera, hai il collasso, hai questo, quindi è un'altra cosa, è malata. Allora, se una è malata, la famiglia è solo poverini, poverini, poverini. Mi ero data un tempo di 2 anni. Perché per fare le cose seriamente da quel punto di vista, e leggendo tutto quello che potevo leggere su quella patologia, avevo capito che ci sarebbero voluti almeno 2 anni perché il mio corpo non potesse tornare indietro. Mi informai esattamente su tutte le conseguenze cliniche, sui cambiamenti del corpo nel corso del tempo, che al netto della causa scatenante, nelle adolescenti, sono completamente diversi dal mio caso. Io restavo perplessa quando scoprivo nelle persone affette da anoressia dei motivi inconsci. Io non avevo deciso di non mangiare perché non mi riconoscevo. Né mangiavo e vomitavo perché dovevo mettere tutto dentro e buttare tutto fuori. Nel mio caso la causa era molto diversa. La mia scelta era scientifica, cioè adotto questa cosa e così sono certa che prima o poi accadrà qualcosa di ineluttabile. Perché la letteratura scientifica lo dice, c'è un prolasso poi degli organi interni, c'è. Però è ineluttabile, ma non lascerà dei, diciamo così, dei punti negativi al resto della famiglia. Certo, perché non si parlerà di suicidio. Si parlerà di povera morta perché era anoressica o comunque perché era malata. È completamente diverso. Cioè anche in questo... Cioè, anche in questo tu hai elaborato sì. Un ragionamento. Sì, sì. Nulla era lasciato al caso perché comunque... Anche se scientificamente non era andata a buon fine la prima volta, bisognava essere ancora più scientifici. Doveva essere una strategia a lunghissimo periodo, non oggi e domani. È incredibile la lucidità che Anna Maria usa per raccontarci questa storia. È davvero sconvolgente come ci racconti con che meticolosità e con che programmazione aveva deciso di fare tutto questo. Fortunatamente, ovviamente, se siamo qui a raccontarla e se sentite la voce di Anna Maria, questa storia è finita in modo diverso. Anna Maria adesso è una chef, è una cuoca, cucina e usa il cibo per fare altro, usa quasi il cibo come terapia. Grazie davvero Anna Maria per raccontarci questa storia. Potete riascoltarvela la storia, se avete voglia, in podcast, in una sorta di piccola pillola con tutte e cinque le puntate della settimana. Potete ascoltarla il sabato alle 21:30, anche lì una mezz'ora tutta dedicata alle storie seriali, oppure potete mandarci le vostre storie. Noi aspettiamo continuamente, anche se evidentemente questi giorni liberi vi stanno ispirando, perché arrivano tantissime storie che hanno a che fare con un confine, con una linea d'ombra, con un passaggio da valicare, e noi ne siamo veramente felici e ve ne siamo molto molto grati. Grazie ad Anita Panizza, a Paolo Corleoni, a Mauro Pescio e a Luca Micheli che assemblano questo programma. Noi lasciamo la linea al GR e torniamo puntualissimi domani alle 15 per raccontare storie, perché raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!